gioco, stavolta non puoi spiegarlo. L'anno 1976 parto, uno stile da infarto. Incarto MC Pacco, li rispedisco al mittente, arto dopo arto. Da bambino ero già pronto per morire il fiato che mi mancava, ora ti lascio stasiato. Il fato mi ha voluto figlio di una famiglia devastata. Non sei parte della gioventù bruciata, una gioventù viziata è quella che mi circonda. Su come sono cresciuto io puoi chiederlo a mia nonna. Quando mia madre e mio padre sono scomparsi uomo, il mio stato dava 100.000 al mese. E dimmi che pretese, e dimmi quali spese, e quante storie pese, e quante ne ho prese. Nell'87 ero all'orfanotrofio e ancora ti domandi perché sono pieno d'odio. Il mio ritratto è più che mai astratto e nel 92 già giravo sempre fatto. Ascoltavo Sangue Misto, End of Wu-Tang Clan, Man, Tribe Called Quest, Snoop Dogg, Dr. Dre. Tutto il resto immagino è venuto da sé. Le tag sopra i muri, la vita da duri, le canne nei locali, le risse tra somari vari. Scazzi coi ragazzi sotto i miei palazzi, caldo come il Kalahari. Tanti armati fino ai denti come i militari. Da quei tempi sono passati i calendari, e quanti non vedo, e quanti non saluto più, quanti non riconosco più, da quanto sono cambiati i sogni, rubati i bisogni. Io metto in loop i miei giorni, metto in loop i miei giorni, metto in loop i miei giorni, giorni. Questo mondo è freddo, non trovo, non trovo il mio posto. Puoi sentire la mia voce, ma non vedi il mio volto. Questo mondo è freddo, non trovo, non trovo il mio posto. Puoi sentire la mia voce, ma non vedi il mio volto. Questo mondo Massi, a.k.a. Def Marz, trovo per il bounce Belvedere 2006. Voce, ma non vedi il mio volto. Questo mondo è freddo, non trovo, non trovo il mio posto. Puoi sentire la mia voce, ma non vedi il mio volto.